Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Adesso rappresento 10 milioni, prima non rappresento un cazzo, certo. Allora adesso ci colloquiamo. Prima era un bambino, veniva lì a dirci il nostro programma, ancora adesso ci ha risposto, se legge la lettera, il compitino, vedi, certo, che fa il presunto, fa il bambino. Beh, adesso poi viene poi dall'europeo. Il bambino presuntuoso di cui parla Grillo alla festa del consolato americano a Roma, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è naturalmente Renzi, quindi continuano in realtà questi dissidi, seppur ci siano incontri. Oggi si è saputo che si incontreranno Renzi, quindi il PD e il Movimento 5 Stelle, lunedì, però sotto sotto evidentemente si guardano sempre con diffidenza, almeno Renzi forse lo nasconde di più, Beppe Grillo di meno. Questo è così, diciamo, un colore di politica, tanto per iniziare, poi tra poco vi racconto la giornata, ma ci sono tanti temi di cui parleremo questa sera, anche di questo omicidio che è avvenuto a Roma, che in realtà sembra un omicidio come tanti, ma nasconde dietro di sé tanti di quegli intrecci di storie ingarbugliate, misteriose e nerissime di una Roma piena di ombre che poi cercheremo in parte di ricostruire. C'è sempre per voi la possibilità di intervenire o attraverso i messaggi, sms al 349-238-6666, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per qualsiasi commento sulle varie notizie. Però se volete sapere come è andata la giornata, adesso ve la racconto. Riforme, in due ore di colloquio rinsaldato il patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi sulla legge elettorale e sul nuovo Senato. Il lunedì l'incontro con la delegazione del Movimento 5 Stelle. Lavoro per i nuovi ammortizzatori, dice il ministro Poletti, manca 1 miliardo di euro. Costo del denaro, la Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati e Draghi annuncia pronti a nuove misure per prestiti a imprese e famiglie. L'agguato a Roma, ucciso il broker Fanella, ritenuto il cassiere di Mockbell in stato di fermo in ospedale, uno degli aggressori, ex membro di Casa Pound. New York, per un nubifragio crolla un pezzo del ponte di Brooklyn, 5 feriti, allarme per l'arrivo di una tempesta, tempesta Arthur, a rischio quindi la festa del 4 luglio, quella di domani. Sigarette, ne arriva un aumento fino a 20 centesimi e poi per la TV, dopo 12 anni di conduzione di Ballarò, Floris lascia la Rai per la 7. Vedo prima del calcio una notizia che arriva dal Brasile di una sciagura, un viadotto in costruzione a Belo Horizonte è crollato schiacciando un pullman e un'auto. Secondo le prime informazioni almeno 15 persone sarebbero rimaste schiacciate, notizia che arriva dal Brasile. E per chiudere il calcio, più che mondiali, perché si riprenderà a giocare domani, Prandelli che è sotto i riflettori perché ricomincia dalla Turchia, il nuovo tecnico del Galatasaray. E partiamo quindi dalla politica italiana con quello che si può definire un po' un tormentone delle riforme, se ne parla tutti i giorni. La giornata è cominciata col vertice di buon'ora tra Renzi e Berlusconi, che è durato circa 2 ore, nel pomeriggio l'incontro tra Berlusconi e i suoi, e a qualche sala di distanza c'era Grillo con i suoi parlamentari in vista del vertice di lunedì, come dicevamo, con Renzi. Tiene il patto del Nazareno mentre Beppe Grillo attacca. Il premier Matteo Renzi incontra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi. I due, in 2 ore di colloquio, rinsaldano l'accordo di gennaio e Renzi ottiene il via libera di Forza Italia alla riforma del Senato non elettivo. Così Lorenzo Guerini. L'incontro è stato molto positivo, abbiamo confermato il percorso che abbiamo fin qui realizzato. È un confronto teso a realizzare le riforme di cui ha bisogno il Paese sotto il profilo del suo sistema istituzionale, e la conferma di quanto ci eravamo già detti nel passato e che è stato alla base del cammino fin qui compiuto. Il Cavaliere viene rassicurato dal Premier che l'Italicum resterà invariato e le preferenze resteranno escluse. Nell'incontro alla Camera con i suoi, Berlusconi però se la deve vedere con i dissidenti. Le perplessità restano, soprattutto in Augusto Minzolini. Intanto Grillo attacca, è pazzesco che il patto del Nazareno tenga. I 5 Stelle incontreranno il governo lunedì, ma il leader incalza l'Italicum a caratteri incostituzionali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si va avanti dunque sul fronte delle riforme. Intanto il ministro del Lavoro Poletti ha parlato di una possibile verifica sul bonus occupazione. colpa certamente della crisi e delle difficoltà delle imprese, fatto sta che il bonus occupazione non decolla. La misura varata dal governo Letta per creare nuovi posti di lavoro per i giovani tra i 18 e i 29 anni tra il 2013 e il 2015 presenta infatti numeri altamente sotto le attese. Stando ai dati INPS di fine giugno, le domande confermate sarebbero circa 22.000 a fronte delle 100.000 ipotizzate nel periodo considerato. Da qui l'annuncio al Senato del ministro del lavoro Poletti: siamo pronti a modifiche. Stiamo facendo una verifica per capire quali possono essere eventualmente i requisiti che sono stati posti alla base della possibilità di ottenere quel bonus, se quei requisiti siano tutti coerenti e tutti congrui rispetto alla possibilità per le imprese di utilizzare quelle risorse. Sul fronte dell'occupazione, spiega quindi il ministro Poletti, il paese vive un momento di grandissima difficoltà, ma siamo in una situazione che dà qualche segno di diversità e questa situazione va valutata. Ma cosa fare di più? Poletti guarda ad un'agenzia nazionale per il lavoro. Quanto alle politiche attive, il modello di riferimento, dice il ministro, è quello tedesco. Infine, i nuovi ammortizzatori sociali, manca 1 miliardo, annuncia Poletti. Vincenzo Miglietti, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E ora invece le parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, nel discorso seguito al direttivo che ha lasciato invariati i tassi di interesse. Gli indicatori economici disponibili fino a giugno segnalano la continuazione di una ripresa economica molto graduale nel secondo trimestre dell'anno. Guardando avanti, la domanda interna dovrebbe essere sostenuta da un certo numero di fattori, tra i quali la politica accomodante e i miglioramenti delle condizioni di finanziamento. I segnali di una timida crescita, secondo il presidente della Banca Centrale Europea Draghi, ci sono, ma il quadro resta fragile. E allora, dopo le misure prese il mese scorso per far affluire nuovo credito all'economia, il cui ammontare potrebbe arrivare fino a 1.000 miliardi, la BCE è pronta ad agire ancora. Il nostro lavoro non è finito per niente, dice Draghi dopo il consiglio direttivo che ha lasciato invariati i tassi. E dunque, se l'inflazione dovesse restare troppo bassa a lungo, ecco che il ricorso all'acquisto di titoli di Stato diverrebbe realtà. E sul punto, ha tenuto a sottolineare, il consiglio è unanime. Draghi poi non dimentica il dibattito europeo tra rigore e crescita e afferma che l'aggiustamento dei bilanci non va allentato e l'economia va rilanciata con le riforme strutturali. Novità infine sul funzionamento della BCE. Dal 2015 le riunioni sui tassi saranno ogni 6 settimane dalle 4 attuali e verranno pubblicati i verbali delle sedute. Massimiliano Zampini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dopo lo scontro verbale ieri a Strasburgo, il Partito Popolare Europeo oggi ha ribadito il no alle modifiche al patto di stabilità, ritornano insomma i rigoristi, però di questo parleremo dopo nello spazio europeo. Intanto in Germania c'è stato uno storico voto del Parlamento tedesco, del Bundestag, sul salario minimo. Questo ne parleremo tra poco, credo che non ci sia al momento il servizio, e quindi restiamo all'estero. C'è tensione in Medio Oriente, in Israele, in Cisgiordania, a Gaza, dopo l'ondata di vendette, di scontri, di raid aerei seguiti all'uccisione dei 3 giovani seminaristi ebrei ritrovati morti a Hebron. Oggi doveva essere il giorno del funerale di Mohamed Abu Qadeir, il giovane palestinese ucciso ieri in quello che sembra essere stato un gesto di vendetta dopo l'uccisione dei 3 ragazzi, un gesto di vendetta da parte di estremisti ebrei. La polizia di Gerusalemme ha però rifiutato di acconsentire che la processione funeraria cominciasse dalla spianata delle moschee, quindi i funerali sono slittati a domani. Invece adesso ritorniamo a quel voto storico di oggi del Bundestag. 8,50 euro l'ora. Il Bundestag ha approvato il salario minimo che entrerà in vigore da gennaio, un progetto fortemente sostenuto dal socio di minoranza della grosse coalizione, i socialdemocratici dell'SPD. Fleißig, billig, schutzlos. Das ist doch bisher die Realität für Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Und damit ist jetzt Schluss. Diligenti, economici, senza protezione. Questa è stata la realtà finora per milioni di lavoratori in Germania, ma adesso è finita. Così ha esultato il ministro del lavoro Andrea Nahles dopo che un'ampia maggioranza di 535 parlamentari aveva votato a favore. Oltre a CDU ed SPD, anche i Verdi hanno votato la legge. Alcuni settori potranno beneficiare di un periodo di transizione pari a 2 anni, ma il principio è stato fissato. Il salario minimo varrà sia nell'ovest ma soprattutto nell'est, tradizionalmente più povero. Per la Germania una prima assoluta giunta dopo mesi di negoziati e polemiche. Le opposizioni contestano in particolare le numerose eccezioni e le regolamentazioni ad hoc stabilite per alcuni settori sui quali la grossa coalizione starebbe per allargare le maglie. Con i suoi 8,5 euro la Germania si colloca nella parte alta della classifica dei salari minimi in Europa, dietro ai circa 11 euro del Lussemburgo, ai 10 della Francia, ai 9 di Olanda e Belgio e più o meno allo stesso livello dell'Irlanda. Italia invece ancora assente all'appello. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora negli Stati Uniti, dove c'è stata una tragedia sfiorata per il crollo di una sezione della facciata ornamentale del ponte di Brooklyn a New York. Travolti da enormi calcinacci e mattoni, i feriti per fortuna non sono gravi, sono 5, ma l'uragano, ormai passato a categoria 1, minaccia, questo uragano di nome Arthur, minaccia tutta la costa orientale degli Stati Uniti e mette a rischio la festa dell'indipendenza, quella del domani del 4 luglio. A proposito di crolli, vi dicevo prima di questa sciagura che è successa a Belo Horizonte in Brasile, vediamo se ci sono degli aggiornamenti, a parte che adesso si parla di immigrazione ancora, che sono stati soccorsi altri 834 migranti su barconi al largo di Malta e con il bel tempo questa cosa è destinata naturalmente a aumentare. Vi dicevo del crollo di un viadotto a Belo Horizonte, ci sarebbero 15 persone schiacciate, adesso tra poco controllo appunto se ci sono degli aggiornamenti dalle agenzie. Torniamo però sulle questioni italiane con l'agguato di questa mattina a Roma, alla Camilluccia, il quartiere Camilluccia, è stato ucciso il broker Fanella legato a Gennaro Mokbel. Una maxi truffa, un presunto tentativo di sequestro e un omicidio. È degna di una delle più complicate spy story la vicenda che ruota attorno a Silvio Fanella, 41 anni, ucciso questa mattina a Roma in un vero e proprio agguato nella sua abitazione. E al momento è stato di fermo uno degli aggressori, Giovanni Battista Ceniti, di 29 anni, rimasto gravemente ferito nella sparatoria. Fanella, che aveva l'obbligo di dimora nel comune di Roma, a ottobre era stato condannato in primo grado a 9 anni di reclusione per associazione a delinquere e riciclaggio nella vicenda Telecom Italia Sparkle Fastweb. Secondo le indiscrezioni, la vittima nei mesi scorsi avrebbe anche subito un tentativo di rapimento non andato in porto da parte di un clan lucano. Una vicenda sconosciuta sia sui legali sia all'avvocato di Gennaro Mokbel, condannato a 15 anni nella vicenda Sparkle Fastweb Ambra Giovane, la quale dice di non essere a conoscenza nemmeno di un altro presunto interrogatorio a cui avrebbe dovuto presenziare Fanella. Si parla spesso del pregiudicato Silvio Fanella. Allora, per quanto a mia conoscenza, ed è quello che risulta dagli atti, Silvio Fanella non aveva pregiudizi di carattere penale, cioè non era stato già giudicato definitivamente per qualcosa. A questo procedimento che è pendente ancora in primo grado e deve essere depositata la sentenza. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma la questione è ancora più complessa, ci sono veramente intrecciate a questo omicidio tante storie anche del passato che non sono tanto passate nella Roma oscura. Ne parleremo poi dopo. Intanto un'altra notizia di cronaca è che la Corte d'Assise di Milano ha assolto i 4 poliziotti imputati di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di Michele Ferrulli, deceduto il 30 giugno del 2011 nel capoluogo lombardo, a Milano, mentre gli agenti lo stavano ammanettando. E poi c'è stato questa sentenza di assoluzione, il pianto della figlia dell'uomo in aula. Parliamo adesso di sanità. In addirittura d'arrivo l'accordo 2014-2016 sul piano della sanità, intanto c'è emergenza sui livelli di assistenza sanitaria che sarebbe garantita solo in 8 regioni. In Italia viene impiegato in sanità circa il 9,2% del prodotto interno lordo, in linea con la media OCSE, poco più di 1.800 euro pro capite. Ma solo 8 regioni su 16 raggiungono livelli di assistenza sufficienti a giustificare il loro accesso al fondo sanitario statale. Le pagelle pubblicate dal Ministero della Salute accusano di inadempienza la metà delle regioni oggetto della valutazione. In regola per i cosiddetti livelli essenziali di assistenza per l'anno 2012, solo 8 regioni, promosse Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto, rimandate molte delle regioni alle prese con i piani di rientro. Sotto accusa c'è la riorganizzazione dei punti nascita, il monitoraggio dei tempi di attesa per visite e ricoveri, il controllo di coerenza tra le schede di dimissione ospedaliera e le cartelle cliniche. Altro punto critico evidenziato dal rapporto LEA del Ministero della Salute, l'assistenza domiciliare e residenziale. Mano a mano che si scende al sud, la situazione peggiora. Campania, Lazio e Molise evidenziano ancora criticità sull'assistenza ospedaliera, ai malati terminali fino alle carenze strutturali per quanto riguarda la riabilitazione, le trasfusioni e l'assistenza per le nascite. Le regioni che non superano gli obiettivi o risultano inadempienti vengono private del 3% del fondo, del 2% nel caso di regioni adempienti nell'ultimo triennio. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di sanità, di salute, parliamo di sigarette. Da 10 a 20 centesimi in più potrebbero rincarare le sigarette, un rincaro previsto anche per quelle elettroniche. Nei prossimi giorni il governo potrebbe quindi varare un aumento delle accise sui tabacchi. Passiamo alla TV. Dopo 12 anni di conduzione di Ballarò e dopo una proficua esperienza quasi ventennale in azienda, in Rai, Giovanni Floris lascia l'azienda, lo comunica Viale Mazzini. La Rai ne ringraziarlo per il lavoro svolto, i porge migliori auguri per il futuro professionale. Dove svolgerà questo futuro professionale Floris? Sentiamo Enrico Mentana. Abbiamo contattato direttamente le fonti dirette della trattativa, non c'è un accordo siglato e quindi essendo la materia molto delicata è inutile mettere bandierine dove ancora appunto non c'è la vetta conquistata. Certo, lasciatecelo dire, sarebbe bello per noi della 7 avere anche Floris, e c'è posto e lo attenderemo nel caso, trattativa permettendo, a braccia apertissime. Insomma, è contento Enrico Mentana. Mondiale del Brasile, infine, in attesa della ripresa delle partite domani con i quarti, in realtà sotto i riflettori c'è Prandelli, il dimissionario Prandelli, che sarà il nuovo tecnico dei turchi del Galatasaray. La nuova avventura comincia lunedì e è il sostituto di Roberto Mancini. Non si conoscono i dettagli del contratto, però si parla di oltre 3 milioni e mezzo a stagione. Poi approfondiremo anche questo argomento, però adesso aggiorniamo chi sta viaggiando, ci sentiamo tra pochi istanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E eccomi da voi, tra poco affronteremo il tema della scuola da un punto di vista particolare. Ieri sono state annunciate varie novità, però ci sono delle novità anche rispetto a queste un pochino paradossali, in contraddizione. Poi cercheremo di capire, ma intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, ma anche se l'avete già accesa alle 21 avete voglia di sentirle, quali sono state le notizie principali sinora. Intanto partirei da questo aggiornamento dal Brasile, di questo crollo di un viadotto a Belo Horizonte. Sotto il viadotto crollato sono rimasti schiacciati almeno due camion, un'auto e un autobus di linea, secondo i vigili del fuoco. I soccorritori hanno estratto finora un cadavere e 10 feriti, così rivelano le fonti. Il viadotto crollato, una delle opere previste per i mondiali di calcio, non era ancora completato, si trova nei pressi dello stadio Mineirao, che l'8 luglio ospiterà una delle semifinali dei campionati del mondo. Insomma, a proposito delle polemiche in Brasile. Per quanto riguarda le altre notizie, incontro tra Renzi e Berlusconi, sembra che sia andato bene oggi, tiene il patto del Nazareno e poi lunedì dovrebbe vedere Grillo. Il Partito Popolare Europeo dice no alle modifiche del patto dell'Unione Europea. Juncker, presidente della Commissione, sulla graticola, perché gli eurodeputati del PD vogliono sapere, insomma, che posizione prenderà. E poi Floris, abbiamo detto che dice addio alla Rai, va alla 7 dopo 12 anni di Ballarò. L'esecuzione a Roma di quello che è considerato il cassiere di Mockbell e uno dei killer è ferito grave, altri due sono in fuga. E poi la svolta di Prandelli, avete sentito, il nuovo tecnico del Galatasaray. Dicevo, quindi parliamo di scuola, partendo da un'iniziativa che riguarda Genova, con la decisione del commissario straordinario della provincia di Genova, che ha deciso che le scuole superiori rimarranno dalla prossima stagione, dal prossimo anno, chiuse il sabato per questioni economiche, diciamo, per mancanza di fondi. Mi conferma Giuseppe Piero Fossati, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta. Sì, confermo esattamente quello che lei ha detto. E tutto nasce che da un bilancio approvato ci hanno tagliato circa 8 milioni. Adesso poi stiamo trattando, perché questi 8 milioni qua possono scendere a 6, 5 e mezzo come l'anno scorso, ne avevano tagliato 28 e sono scesi poi a 20, perché abbiamo deleghe regionali che per noi sono semplicemente partite di giro. che tutto nasce, che dobbiamo trovare all'interno dell'ente, e abbiamo già tagliato nelle varie aree, scuole, come edilizia, intesa come viabilità, difesa suolo, però adesso mancano all'appello ancora 2,5 milioni, e per recuperare questi 2,5 milioni abbiamo dovuto affrontare questo argomento, che stiamo trattando peraltro già da 2 mesi con i dirigenti scolastici, perché c'è una parte favorevole, che sono le scuole superiori tecniche, e una parte che sono i licei, che invece non sono favorevoli. Vorrebbero però esserci anche il andare a scuola anche il sabato. Esatto. Giuseppe Piero Fossati, ricordo, commissario straordinario della provincia di Genova. C'è un commissario straordinario alla provincia, perché la provincia insieme alle altre dovrebbe essere abolita, o almeno o si è dimesso, mi sembra, il presidente della provincia. Questo nasce parecchi mesi fa, perché nasce nel aprile, fino aprile 2012. Per cui io sono commissario già da due anni. E l'anno scorso abbiamo fatto tra le righe, tra le gocce, i salti mortali, siamo riusciti a chiudere un bilancio. Quest'anno con questo taglio non siamo in condizioni di poter assicurare che la provincia di Genova non vada al predisesto o al dissesto. Allora, mi scusi Fossati, adesso c'è in collegamento, che lo saluto, Roberto Reggi, sottosegretario all'istruzione. Buonasera, sì, Reggi. Buonasera. E ben trovato. Allora, mi pare che ieri, insomma, negli ultimi giorni, lei abbia annunciato il piano della scuola, che dovrebbe essere la cosiddetta rivoluzione in classe, no? Quindi un nuovo contratto di lavoro che prevede più ore per gli insegnanti, più ore per tutti i docenti, un aumento di stipendio per chi merita. Poi questa proposta, questo progetto, questo piano dovrebbe essere sottoposto al Presidente del Consiglio Renzi nei prossimi giorni. Questo fatto che si allunghi l'orario delle scuole, leggevo ieri, aperte dalle 7 alle 22 addirittura, non è in contraddizione con chi è costretto invece a rinunciare a un giorno per risparmiare, sottosegretario? Beh, le posso dire che intanto che il commissario prefettizio di Genova pensa di chiudere le scuole il sabato, alla scuola di Donato di Roma da qualche tempo hanno deciso di aprire la scuola anche la domenica. Oh caspita, non saranno per contenti cui gli studenti, ma neanche gli insegnanti forse. No, nel senso che è aperta la domenica non per fare lezioni tradizionali, ma per fare altre iniziative educative che servono moltissimo per contrastare la dispersione scolastica, per dare supporto ai ragazzi in difficoltà, per valorizzare i ragazzi più bravi che hanno, quindi con progetti educativi particolari, possibilità di esprimersi ancora meglio. Quindi, e quindi cosa vuol dire? Che sono più bravi a Roma? È una situazione a macchia di leopardo, no? Dove evidentemente le altre province, a differenza di Genova, hanno fatto scelte differenti, magari hanno fatto delle economie su altre spese e non si sono trovate nella condizione di dover tagliare sulla scuola, no? È una scelta politica, che ognuno legittimamente può fare come ente locale, stante la situazione difficile degli enti locali oggi. Però quello che mi preme sottolineare è che oggi la situazione è a macchia di leopardo, non c'è una strategia comune che investe nella scuola come luogo educativo permanente, come invece a mio avviso dovrebbe succedere. Cioè la scuola dovrebbe diventare sempre di più il punto di riferimento educativo del territorio, e per farlo non dovrebbe limitarsi a tenere aperti i propri locali soltanto durante l'orario scolastico di lezione, ma dovrebbe mettere a disposizione i locali anche oltre, per le attività anche di natura aggregativa, educativa sostanzialmente, in varie forme. Succede già in centinaia di esperienze nel paese, con risultati molto molto positivi dal punto di vista educativo. Sottosegretario Reggi, allora chiedo a Giuseppe Piero Fossati il perché di questa scelta. Quindi dipende da una scelta anziché un'altra di fare economie, come diceva lei, sulla scuola rispetto ad altri settori. Fossati, cosa risponde? Io sono felicissimo che in altre realtà vadano incontro a queste esigenze, che peraltro condivido. Problema di fondo, vede, è che i discorsi sono molti, la sostanza delle cose è che in trabilanci lo Stato ci ha tagliato 39 milioni. Allora, noi abbiamo due deleghe regionali, soprattutto tra le altre, cosa che non ha Bologna, e siamo allineati sulla spesa corrente con Bologna. Bologna ha avuto un taglio di 2.800.000, noi abbiamo avuto un taglio di 8 milioni. Allora, io credo che nell'analisi, peraltro dal suo punto di vista corretta, ecco, io credo che bisogna tenere conto di questa situazione qua, perché se non teniamo conto della disponibilità delle risorse, tengo presente che il sottoscritto dal 1 di luglio al 31/12 lo farà volentieri gratuitamente. Tengo presente che abbiamo tagliato sulla viabilità, abbiamo tagliato ma pesantemente sulla difesa del suolo, abbiamo tagliato pesantemente sull'edilizia scolastica, adesso dobbiamo risparmiare sui consumi. Purtroppo c'è una parte che sono gli istituti tecnici che sono d'accordo e fanno più ore che i licei, purtroppo non sono d'accordo tutti i licei. Quindi come finirà Fossati? Quindi come finirà? Guardi, molto semplicemente, se non vogliamo andare al dissesto, e dico chi precedentemente ha parlato, conosce bene e capisce cosa voglio dire, se non si vuole andare al dissesto della provincia di Genova, prima che parte la città metropolitana, ahimè, siamo costretti a fare queste sofferenze per dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, alunni. Questa è l'unica strada che mi permette di agganciarmi a recuperare quei soldi che a bilancio completato hanno tagliato la provincia di Genova per sopravvivere fino al 31/12/2014. Dopodiché, se la città metropolitana inizierà a funzionare, io mi auguro, con le risorse necessarie per andare avanti in tutti i settori, sarà una cosa bellissima ritornare laddove lo vorranno, perché a Genova c'è su 88 istituti, ce n'è già più di 30 che fanno dal lunedì al venerdì, sia ben chiaro, per scelta all'interno dei consigli, sia chiaro, saremo ben felici di accogliere questa cosa qua, però differentemente la scelta è o andiamo al predisesso oppure facciamo quei tagli laddove è ancora possibile risparmiare su qualcosa. Chiaro Fossati, risposta a lei, sottosegretario Reggi, visto che abbiamo ancora un minuto e mezzo, quindi qualcosa per... Adesso io non mi permetto di entrare nel merito delle scelte del commissario, che evidentemente si sarà trovato... Detto da un commissario, tra l'altro, anche in particolare, visto che è stata commissariata la provincia, quindi qualcuno che è intervenuto... Si è trovato ad affrontare un problema urgente di questo tipo, lo affronta come può, insomma. Però in questo contesto è chiaro che il confronto con le scuole è fondamentale, e oggi per esempio gli attuali sistemi di governance della scuola non prevedono un raccordo permanente tra gli enti locali e le scuole. Cioè, nel consiglio d'istituto per esempio non c'è un rappresentante dell'ente locale, per cui in questo caso l'ente locale può decidere liberamente, bontà sua, se ha un contatto e un confronto con la scuola. Invece noi vorremmo renderlo sistematico proprio per evitare che la scuola sia una sorta di enclave staccata dalla comunità, e viceversa l'ente si dimentichi, no, di consultarla in condizioni come quella che stiamo vivendo. Quindi questo è previsto, no? Sottosegretario Reggi, in questo piano della scuola? Sì, cioè noi abbiamo dei cosiddetti decreti delegati, no, dove c'erano i consigli di istituto, che sono ancora quelli di una volta, cioè non si sono adeguati ai tempi. È uno degli elementi che noi dovremmo adeguare in questa che mi piace chiamare nuovo patto per la scuola, dove la flessibilità e la capacità di rendere stabili le risorse ci consentiranno di fare una programmazione più adeguata per la sfida educativa che abbiamo davanti. Poi è chiaro che di fronte a situazioni di questo tipo mi verrebbe da dire: intanto che riducete le spese, fate domanda al bando che stiamo facendo sull'efficientamento energetico, per cui avrete un intervento di efficientamento energetico che vi farà spendere poco nei prossimi anni, non ci sarà bisogno di chiudere la scuola. Ecco, io la ringrazio sottosegretario Roberto Reggi, spero di ritrovarla presto, e mi auguro che Giuseppe Piero Fossati, commissario straordinario della provincia di Genova, possa possa con questa misura già risparmiare un po', non so comunque se sarà sufficiente poi per la prossima stagione per tenere aperto il sabato. Intanto vi ringrazio e vi saluto, grazie Fossati, grazie Reggio, grazie a voi, grazie, buona continuazione, grazie. Ci prendiamo questa pausa di riflessione, potete commentare anche questo intervento, questo dibattito di ora, ai messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook, come sempre, di Effetto Notte. Leggo un messaggio molto polemico di Tina verso Floris che dice: passa alla 7, mica è passato al nemico, il suo padrone è sempre il PD, Sereni, dice, insomma, ognuno diciamo ha i propri punti di vista e l'obiettività e la libertà totale, soprattutto per chi arriva a certi livelli, credo che sia un po' difficile un po' dappertutto, Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Diego qui, Roberta Giordano sempre con voi. Vedo che ci sono degli aggiornamenti di notizie per quanto riguarda l'Unione Europea. Si acuisce lo scontro tra Italia e Germania su rigore e poi tra poco ne parleremo. E poi c'è anche questo studio dell'Istituto Superiore di Sanità che dovrebbe essere quindi terminato, iniziato nei mesi scorsi. Terra dei Fuochi e zona dell'Ilva, quindi a Taranto, si dimostra dai dati che la mortalità è in aumento. E poi le altre notizie, le riforme. In due ore di colloquio è stato rinsaldato oggi il patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi. Poi lunedì si vedrà Renzi, o almeno una delegazione del PD con il Movimento 5 Stelle. Poi il costo del denaro con la Banca Centrale che lascia i tassi invariati e Draghi annuncia pronti a nuove misure per prestiti a imprese e famiglie. L'agguato a Roma in cui è stato ucciso il broker Fanella, ritenuto cassiere di Mockbell, in stato di fermo in ospedale, uno degli aggressori, ex membro di Casa Pound. E poi New York, per un nubifragio crolla un pezzo del ponte di Brooklyn, 5 feriti, mentre l'altro crollo c'è stato in un viadotto a Belo Horizonte in Brasile, ci sarebbero 15 persone sotto le macerie. E poi per la TV avete sentito che dopo 12 anni di conduzione di Ballarò, Floris lascia la Rai per la 7, e per il calcio Prandelli che arriva al Galatasaray. Vi dicevo invece che a proposito di questo omicidio che c'è stato oggi a Roma, no? In una sparatoria, in un agguato, la Camilluccia, che è un quartiere residenziale della capitale, è stato ucciso il cosiddetto cassiere di Mockbell, condannato per truffa per il caso Fastweb. La vittima, insomma, è Silvio Fanella, 41 anni, considerato dagli investigatori il cassiere di Gennaro Mockbell, cioè l'imprenditore romano un tempo vicino all'estrema destra, finito in carcere, condannato a 15 anni nell'inchiesta Broker, che 4 anni fa aveva svelato un maxi riciclaggio di 2 miliardi di euro ai danni dell'erario. Anche Fanella, che aveva un passato come produttore, poi imprenditore di altre attività, nel 2010 era stato arrestato e ottobre scorso era stato condannato. Il tribunale gli aveva inflitto 9 anni, però nel frattempo era tornato in libertà a Fanella, con il solo obbligo di dimora nel comune di Roma. E di quel processo Fanella, che poi è proseguito naturalmente, non ha perso nemmeno un'udienza. Pare che domani dovesse andare a fare una testimonianza. La cosa non è stata ancora comprovata, però intanto saluto Sarina Biraghi. Ben trovata Sarina, direttrice Grazie, del Tempo. Buonasera. Notizia del quotidiano Il Tempo. Buonasera a te Sarina. Insomma, questa storia in realtà, al di là di un omicidio, purtroppo ne avvengono tanti in Italia e anche a Roma, porta dietro di sé una serie di storie nerissime di una Roma piena di ombre, di intrecci, di sotterfugi. Pare che Mockbell, tra l'altro, questo Gennaro Mockbell, l'imprenditore romano a cui era legato Fanella, appunto definito il suo cassiere, pare che sia stato appunto in passato molto legato all'estrema destra, poi abbia cercato anche di si è invischiato appunto nei casi, nei processi che riguardano le inchieste Fastweb, Telecom Sparkle, poi sarebbe stato eletto, era legato a un senatore, un ex senatore, esatto, eletto coi voti di 'Ndrangheta, legato sempre Mockbell alla malavita romana, in particolare alla banda della Magliana, poi servizi segreti, insomma quanti intrecci, cerca tu se riesci in sintesi Sarina di farci un racconto di questa Roma dalle mille ombre. Facciamo una sintesi sul personaggio, sì, che intanto ha un nome un po' strano e direi che sembra l'uomo nero, nero in quanto occulto, sempre un po' dietro, sempre agito, sempre nell'ombra, nero perché si dice che fosse molto legato all'estrema destra, non per niente a 20 anni venne arrestato insieme a Antonio Dinzillo, che era un ex NAR e che è l'uomo che fu accusato di aver ucciso il boss Enrico De Pedis della banda della Magliana. Inizia lì il legame con la banda della Magliana e Mokhber diventa lui stesso, in non giovanissimo però, capo di una banda, che fa truffe molto più raffinate, no? Non parliamo di droga, non parliamo di malavita, parliamo di truffe, il famoso sistema carosello di soldi che girano praticamente e si truffa l'erario. Non è, diciamo così, confermato che Fanella fosse il cassiere di questa banda di Mokhber, ma la cosa, diciamo così, inquietante e comunque interessante da giallo molto estivo è che pare che oggi le persone, il comando che ha agito, diciamo così, a domicilio, perché ha bussato, pare dicendo siamo della finanza, apriteci, cercasse un sacchetto di diamanti, ovvero diamanti per 30 milioni di euro, nonché 70 milioni di contante che pare che Fanella abbia piazzato non si sa bene dove. Quindi ecco, seppur non fosse il cassiere, sicuramente maneggiava soldi e diamanti, quindi questa è una cosa particolarmente interessante. Per quanto riguarda l'hai detto tu stessa, per quanto riguarda la testimonianza di domani, non è confermato che ci fosse. Possiamo e dobbiamo tristemente confermare invece che c'è una lunga scia di sangue su Roma, messo a causa della criminalità organizzata, ovvero 31 omicidi soltanto nel 2013, e non è criminalità straniera, non sono regolamenti, come si dice nei giornali, gentaglia, sono tutte persone di cui si perdono poi le tracce, non si capisce bene a che cosa fossero legate. Uno per tutti, il famoso delitto Simmi, anche quello, un giovane che nel quartiere Prati, altro quartiere come quello di oggi, cioè quartieri signorili direi, no, di Roma bene, certo, assassinato con 4 colpi di pistola, usciva dal portone insieme alla fidanzata. Anche lì si dice che il padre di Simmi fosse legato alla banda della Magliana, ma Simmi non avesse alcun legame malavitoso. Quindi 31 delitti sono un numero che direi cominciano a mettere rispetto. Paura. Di tutto rispetto in una città. Dire. Esatto, che se ne ricordo, all'inizio di quest'anno lo stesso presidente della Corte d'Appello di Roma, nell'apertura dell'anno giudiziario, disse che praticamente la fine della banda della Magliana aveva provocato un vuoto che è stato riempito da una serie di bande, dove non ce n'è una con un capo definito, ma ce ne sono tanti che si spartiscono degli interessi, gli interessi sulla capitale, che vanno dalla droga ad investire proprio in società finanziarie, in società immobiliari, nell'edilizia e nel commercio, ovvero nei gangli economici di una grande città come Roma. Neanche la New York del tempo dei gangster, mi sembra una cosa pazzesca, sì, questo magma ribollente a Roma. Sì, è una città ribollente in effetti, dove ci sono peraltro anche le piccole bande, ma quelle sono ancora piccole, non hanno una grande forza, una grande determinazione, le bande straniere, perché poi ci sono anche quelle, no? Le bande dei rumeni, i cinesi, ma sono di piccolo cabotaggio, diciamo così. Queste di grande cabotaggio purtroppo sono ancora organizzate da italiani, da criminalità italiana e di alto livello, direi a questo punto. Il fatto stesso che Fanella sia scampato a un tentativo di rapimento per il quale erano stati assoldati 3 giovani da una cosca lucana, beh, insomma, gli interessi sono grossi, vasti, e sono molto seri. Questa, insomma, purtroppo è l'altra faccia di Roma. Grazie intanto Sarina Biraghi, che chiaramente la conosci bene essendo direttrice del Tempo. Buon lavoro. Siamo Sarina. Grazie a voi, buona serata, buon proseguimento. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo molto brevemente le notizie a partire dalle riforme, col colloquio che c'è stato oggi tra Renzi e Berlusconi, che rinsalda il cosiddetto patto del Nazareno. E poi Renzi ha annunciato che il PD si incontrerà lunedì col Movimento 5 Stelle. Poi per il costo del denaro la BCE lascia i tassi invariati e Draghi annuncia ci sono fondi pronti, nuove misure per prestiti a imprese e famiglie. L'agguato di Roma, ne avete appena sentito parlare di questi veramente intrecci di storie complicatissime nella pancia di Roma. E per il calcio Prandelli che ricomincia dalla Turchia, il nuovo tecnico del Galatasaray. Europa 24 notte. E l'altra importante notizia è che riprende questo scontro tra Italia e Germania in Unione Europea sul rigore, perché è venuto fuori pochi istanti fa un'agenzia, Schäuble, ministro delle finanze tedesco, che ha detto, vediamo se lo ritrovo, ha detto noi vogliamo che sia sempre rifiuto il tema della flessibilità, così ha detto esattamente, abbiamo bisogno di crescita, questo sì, ed investimenti. Sergio Nava, chiarisci tu le idee su questo ping pong tra flessibilità, rigore, la Merkel che apriva, adesso si chiude. Siamo uscite mondiali, ma continuiamo a giocare un'altra partita, infatti. Quantomeno un po' una magra consolazione, stiamo continuando a giocare questa partita. Sì, diciamo che la situazione è abbastanza confusa, nel senso che, come era prevedibile, quella frasettina di usare al meglio, nel modo migliore possibile, la flessibilità all'interno del patto di stabilità contenuta nelle conclusioni del vertice europeo della scorsa settimana, di venerdì scorso, ha lasciato talmente ampi margini di interpretazione che alla fine non si è deciso nulla, no? Si è deciso qualcosa per poi non decidere nulla. La situazione attuale è che la stoccata di ieri di Manfred Weber nei confronti di Matteo Renzi e la controreplica di Renzi hanno riaperto nuovamente il vaso di Pandora del dibattito. È chiaro che i tedeschi hanno un concetto di base, i rigoristi tedeschi dicono: voi i debiti non li fate più, non approfittate dei tassi bassi per fare debiti, perché non ci fidiamo sostanzialmente di voi. Questa è un po' purtroppo la sintesi, segue una logica tedesca. I tedeschi hanno sforato il patto di stabilità, ieri Renzi l'ha rinfacciato, lo ha ricordato, però loro dicono: noi siamo tedeschi e se l'abbiamo sforato l'abbiamo fatto per fare delle riforme, poi ci hanno portato alla crescita. Di voi italiani, e questo purtroppo è il sottinteso, e anche di voi francesi, non ci fidiamo così tanto. Ora la partita è tutta politica all'interno del Parlamento europeo, perché la settimana prossima il presidente designato della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, vedrà i due gruppi politici principali, anche gli altri, ma soprattutto socialisti e popolari. Lui è un navigato politico democristiano lussemburghese, quindi sicuramente riuscirà a accontentare entrambi. Mediazione. Bisognerà vedere se poi veramente si... È designato per il momento. Lui è designato. Poi il 15 luglio, hanno cambiato data, non più il 16 ma il 15 luglio, il Parlamento europeo dovrà votare. Ora, se il Parlamento europeo, dopo tutta la campagna elettorale basata sui cinque candidati, può scegliere di suicidarsi dopo aver ottenuto la designazione di quello che è stato definito lo Spitzenkandidat, uscito vincente dalla consultazione popolare. Il candidato di punta, è un termine tedesco, non si sa perché, ma stavolta il tedesco ha vinto ed è diventato il termine, ha definito il candidato di punta, i candidati di punta al Parlamento europeo. Se il Parlamento europeo decide, tra virgolette, di suicidarsi, cioè votando contro quello che era di fatto uscito vincitore dalle consultazioni, magari lo farà. Però chiaramente ora la partita politica è veramente delicata, ci si gioca il tutto per tutto e succederà tutto nei prossimi 12 giorni. Questione di pochi giorni per capire che cosa succederà. Grazie Sergio. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E invece un ascoltatore che ritorna sul tema di prima delle scuole, dice: ma anziché toccare le scuole non si potrebbe tagliare gli stipendi dei dirigenti della provincia di Genova, e se non bastano anche di regione e comune? Si parlava prima del commissario della provincia di Genova, di questo problema di dover tenere le scuole chiuse dal prossimo anno scolastico anche il sabato. Ma adesso invece parliamo del premio letterario più prestigioso d'Italia, che proprio ai passaggi finali, con Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao. Ciao Roberta. Tra due ore la proclamazione del vincitore, grosso modo un'oretta, tra quanto? Sì, diciamo che fra un paio d'ore si saprà il vincitore finale, perché la cinquina è stata decisa da qualche settimana e stasera la giuria, i cosiddetti 400 amici della domenica, che sono esponenti del mondo della cultura, ai quali da qualche anno si aggiungono 60 lettori forti, decideranno chi fra i cinque finalisti vincerà il premio, direi decisamente più ambito, perché una volta che si vince lo Strega si riescono a vendere parecchie copie. Senti, però, a proposito della vendita di copie, mi fa venire in mente, è possibile che chi degli scrittori che sono nella cinquina dei finalisti ha venduto più copie in questo periodo possa essere lui il vincitore? Leggevo che Francesco Piccolo ne ha vendute 42.000, mentre quello che gli è subito dopo, Scurati, ne ha vendute 8.000, quindi è già quasi scontata, funziona un po' così, diciamo. Allora, diciamo così che il premio Strega è un premio spesso legato alle case editrici, insomma le case editrici hanno un certo peso nel determinare il vincitore. Si pensa quest'anno che il favorito possa essere Francesco Piccolo con Il desiderio di essere come tutti e Einaudi, anche se nella votazione della cinquina il primo si è classificato Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura, Feltrinelli. Gli altri in gara sono Scurati con Il padre infedele, Antonio Scurati di Bompiani, quindi il gruppo Rizzoli, poi c'è Antonella Cilento, Lisario, Il piacere infinito delle donne, Mondadori, e infine c'è Francesco Pecoraro, La vita in tempo di pace, Ponti alle Grazie, che vuol dire in sostanza il gruppo Gens. Quindi bisogna vedere chi effettivamente fra questi cinque la spunterà. Diciamo che il favorito, ormai si dice da tanti mesi, è Francesco Piccolo ed è quello che ha venduto di più. Considera che autori come Pecoraro, La Cilento hanno venduto circa 4.000 copie. Beh, certo, fino a 5-6 anni fa era un dato risicato. Senti Alessandra, però ci si è messa di mezzo anche la fede del consumatore, mi pare, quest'anno, a parte chiede trasparenza su varie cose, ma anche sui plagi e gli autoplagi, perché sembra che Antonio Scurati abbia messo un'autocitazione di una scena di sesso di un altro suo libro in questo tale e quale, perché o gli piaceva quella scena di sesso. Posso dire che secondo me è una grandissima sciocchezza, nel senso che se avesse copiato un pezzo di romanzo da un altro, e ci mancherebbe, quello è plagio, ma se una persona, uno scrittore, ripercorre delle frasi simili per descrivere una scena, nello specifico è una scena di sesso, cioè non ci vedo niente di scandaloso, francamente sono altre le cose che mi scandalizzano. Dicono, si è risparmiato la fatica, ha fatto copia e incolla, ha messo l'impero. Antonio Scurati, non è stato Francesco Piccolo, è stato Antonio Scurati, sì, no, dicono, diversi dicono, se praticamente ha fatto il copia e incolla da quella scena, l'ha messo lì, probabilmente ritengono che anche altre parti, non lo so, però tu dici, insomma, effettivamente, guarda, è roba mi sua. Mi sembra una polemica sterile, sinceramente, farei polemica su altre cose, ma non su questo. Quindi vinca il migliore, probabilmente Francesco Piccolo, ma lo diciamo così in libertà, nel senso che poi ci potrebbe essere anche il colpo di scena, secondo te? Certo. Allora, non me lo aspetto il colpo di scena, però bisognerà andare a contare i voti, nel senso che quest'anno per la prima volta si vota col voto elettronico, cioè mentre gli anni scorsi, non so, si votava attraverso il telegramma, c'erano un sacco di polemiche, si diceva che le case editrici mandavano i telegrammi al posto degli amici della domenica, cioè al posto dei giurati, invece da quest'anno si può votare, votano quasi tutti online con una password e da ogni computer può partire una sola votazione. Quindi è un tutto po' più complicato. E poi ci sono sempre i 60 lettori forti che comunque, insomma, 60 più i 400 non è che pesino poi così poco, insomma, staremo a vedere, quindi saprete nelle prossime edizioni quale sarà il vincitore. Vediamo se i pronostici possono essere attendibili. Grazie Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Grazie a voi. Ciao. E adesso invece occupiamoci di un disoccupato che è stato proprio brevissimamente disoccupato, 9 giorni in tutto, Cesare Prandelli, e lo chiedo a Giovanni Capuano. Giovanni. Sì, ciao, 216 ore se non sbaglio, ecco, conto, una disoccupazione record, dopodiché subito lui, dimissionario, tristissimo, sconfitto eccetera, sa che è stato subito pescato dalla squadra turca del Galatasaray, no? Sì, guarda, noi ce lo ricordiamo, io ero stato alla Malpensa, chiuso dentro questo van con i vetri oscurati che se ne andava scortato fuori dall'aeroporto, veniva descritto come affranto a Orzi Nuovi, che è dove è originario e dove abita, a ragionare sui suoi errori e sulle colpe degli altri, invece la verità è che in queste ore ha stretto dei contatti con il Galatasaray e risulta che questi contatti in realtà ci fossero stati anche prima del Mondiale, e insomma adesso si sono concretizzati. Non c'è ancora l'ufficialità, nel senso che manca ancora comunicato ufficiale del Galatasaray, però qualche ora fa il presidente del Galatasaray sul profilo Twitter ufficiale del Galatasaray ha scritto una serie di considerazioni, ha detto: lunedì inizia l'era di Prandelli, sarà l'allenatore giusto per noi, vinceremo il campionato, sento di aver fatto la scelta giusta. Quindi insomma, se diciamo, l'ha scritto su Twitter, sarai molto stupito se domani improvvisamente qualcuno dei protagonisti di questa vicenda va a prendere molto bene il disoccupato di lusso Prandelli, perché risulta insomma che alla fine starà tra i 4 e i 5 milioni di euro netti a stagione, considera che con la federazione ne prendeva 1,7, aveva diciamo che ci ha guadagnato praticamente, almeno dal punto di vista economico. Senti Giovanni, per chiudere, domani iniziano i quarti, no? Giusto. Sì, domani iniziano i quarti con Germania-Francia alle 18, Brasile-Colombia alle 22, tra l'altro Brasile pochi minuti fa purtroppo si parla di altro, nel senso che è crollato un viadotto dell'Orizzonte e si stanno riaprendo le polemiche ovviamente sulla qualità e la quantità dei lavori fatti. Attenzione perché in queste settimane è andato tutto bene, non ci sono nemmeno stati grandi incidenti come un anno fa, però evidentemente ciascuno di questi episodi poi può portare delle reazioni, nascondere problematiche anche di ordine pubblico, al di là evidentemente del dramma di chi è rimasto coinvolto da questo crollo. Sì. Comunque domani Germania, Francia e Brasile e Colombia si stanno allenando adesso le nazionali. Ti dico solo una curiosità, il presidente della Colombia è stato costretto su Twitter a smentire di aver fatto un decreto, il 449, col quale dava festa nazionale domani per consentire a tutti i colombiani di non andare a lavorare. Non è vero niente. Una bufala per loro. Grazie Giovanni Capuano, noi ci sentiamo tra poco.